Can you see it, my brother? Can you see the new? Can you see it, my sister? Can you see the new? Can you see it, my brother? Can you see the new? Can you see it, my sister? Can you see the new? Iniziamo i nostri magazine del lunedì. Iniziamo con un piccolo inciso che c'è in prima pagina sulla Domenica del Sole 24 Ore. Una rassegna di isole su questo filo rosso con gli articoli in questa pagina e altre quattro pagine speciali, oltre a diversi articoli sparsi nella consueta scansione delle pagine. Si svolge questo numero della Domenica che ci fa entrare nell'estate e per tutta la stagione, come lo scorso anno, avremo una pagina di Domenica d'estate nella quale ogni settimana, sempre con le illustrazioni da Anna Godeassi e i nostri collaboratori, i giornalisti della redazione, racconteranno di una loro isola speciale. E una l'ho già citata, adesso cito anche quella che mi riguarda personalmente, che è molto molto vicina a noi, è carica di fascino, è particolare. Pensate che questa piccola striscia di terra fino al primo dopoguerra è stata abitata e popolata in maniera importante, con tanto di allevamenti, campi da coltivare, rivendite, negozi, motivi di incontro. Si tratta dell'isola Scanno Cavallari, un'isola appunto che ha avuto modo di sorgere nel delta veneto del Po e che si è trasformata con l'andar del tempo, le trasformazioni che ha avuto appunto quel territorio, in una spiaggia con tanto di accoglienza balneare molto bella, molto particolare. La lunghezza di 5 km, l'arrivo con l'imbarco a Porto Levante ti porta per un breve tratto di acqua mista sul ramo del Po di Levante proprio a questa piccola isola, e vi posso assicurare che anche se il tratto è breve, l'idea della navigazione dà veramente qualcosa che è un valore aggiunto, perché sembra di lasciare alle spalle tutto quello che durante la settimana hai caricato come impegno, come quotidianità, un motivo di evasione molto forte, accompagnato da gabbiani, aironi, cormorani, fenicotteri, una biofauna veramente molto ricca, dei colori, e quando c'è questa estate è un po' parca per quanto riguarda il calore, è un calore assolutamente unico e speciale. Sull'isola però vi posso assicurare che anche nelle giornate più torride, essendo isola, seppur con delle singolarità e peculiarità particolari, vi è sempre motivo di corrente d'aria e di un attimo di sollievo per chi soffre il caldo. Ma non solo questa, per quanto riguarda questa è quella che ho voluto riportare, ma sfogliando la Domenica del Sole 24 Ore ne ho trovata una che è riguardante anche la giornata odierna, perché è San Giovanni. Qual è l'isola di San Giovanni? Beh, un'isola del Dodecaneso, nella parte più settentrionale del Dodecaneso, si chiama Isola di Patmos. Anche di quella parleremo, perché grazie all'articolo di Giulio Busi, purtroppo impegnato, abbiamo già conosciuto l'intellettuale saggista della Domenica del Sole 24 Ore e non solo, Giulio Busi ha dato un approfondimento molto particolare all'isola di Patmos, appunto nel paragrafo di apertura. Redattori, disegnatori, collaboratori della Domenica nell'estate 2024 daranno motivo di approfondimento come filo rosso di stagione. In apertura, in questo caso, le geografie filosofiche che chiamiamo isole, spazi e idee, riserve di pensieri o gioco ironico di un qualche dio. A loro dedichiamo questo numero, fra luoghi mitici, avvicinamenti, navigazione, e per l'estate ne visiteremo una a settimana. Può essere reale, ma può essere anche immaginaria. Del resto tutto è isola, dice Roberto Casati, apre così il suo articolo. Mia nonna pensava che Venezia galleggiasse sull'acqua, ogni tanto tornava alla carica, mi chiedeva come fosse possibile, il pensiero evidentemente la tormentava. Non aveva poi tutti i torti. Se ci chiediamo che cos'è un'isola, forse risponderemo che è un'anomalia, oppure potrebbe essere un'eccezione, mentre invece anche geograficamente non è esattamente facile. fatta in questo modo, è un'impossibilità fatta realtà, un problema, un nodo concettuale. Non siamo necessariamente dei filosofi per esprimerci così. Il fatto è che le isole sono geografie filosofiche e sono sempre sorprendenti. La navigazione, che genera abitudine, crea anche aspettative. Dopo tutte queste onde, giorno dopo giorno, notte dopo notte, ci attendiamo sempre e soltanto ancora onde, vediamo sempre acqua che lascia il posto ad altre acqua, come logico che sia, perché logico significa comodo. E invece, come dal nulla, ecco che sbuca un'isola. Letteralmente dal nulla, la curvatura della terra cela tutto dietro l'orizzonte miope della nave e anche l'isola più alta e impervia può trapelare solo poco a poco, col contagocce o col contasassi, in particolare per l'isola di cui parleremo a breve. E insomma, dalle Azzorre, arrivando da ovest, da quando l'abbiamo avvistato a quando abbiamo poi dovuto e potuto preoccuparci della risacca sulla sua costa, sono passate ancora 8 interminabili ore su e giù per queste creste, ore drogate in cui il triangolo del suo cono vulcanico si è dipanato con esasperante metodo. Conservare la forma, cambiare la dimensione, non se ne poteva più. Ma quale che sia il tempo dell'avvicinamento, che per gli atolli a fior d'acqua potrà essere invece brevissimo e quindi anche pericolosissimo, non riusciamo a farci una ragione. Diventiamo cocciuti e ghegliani, incapaci di accettare l'irrazionale che ci dà tutta questa terra e da dove dovrebbe esserci invece solamente acqua. Sarebbe più semplice il mondo senza le isole, procede in questa narrazione molto filosofica e molto particolare, e ne descrive alcune. Ne approfondiremo i contenuti con l'articolo di Giulio Busi in quella selezionata da me per questa edizione della Domenica del Sole 24 Ore. Poi comunque in tutti i modi si addossa loro una responsabilità territoriale che forse non erano pronte a sostenere. Londra mantiene una nutrita guarnigione alle combattute isole Falkland. Parigi manda il presidente in Nuova Caledonia. A migliaia di chilometri di distanza le isole tolgono il sonno alle rispettive capitali, ma anche vicino a casa. La minima scossa ha grandi ripercussioni. Ad esempio, le richieste di indipendenza della Corsica o della Sardegna sembrano sicuramente meno sorprendenti di quelle che emanassero, che so, dall'Umbria o dalla Borgogna. E infatti sono zone territoriali con caratteristiche ben diverse, eppure con un'identità ben precisa. Come per la Baia California, finirete per lo spiaggiarvi, e tuttavia una verità si nasconde nell'illusione, ad esempio, della mitologica isola Circeo. Il livello del mare sale e salirà sempre di più. Vedere il Circeo come un'isola e vederlo come sarà tra qualche secolo, allo stesso modo come è stato descritto in precedenza per la California, e quindi un'isola del futuro. La distanza spaziale annulla la distanza temporale. E io ho selezionato un brano di Leon Ware su queste parole: Why I Came to California. E un buon ascolto, e a tra poco andremo nell'isola selezionata, oltre a quella che vi ho presentato all'inizio dei magazine, nell'isola selezionata invece da Giulio Busi per questo filo rosso d'estate, per l'inserto del Sole 24 Ore. Leon Ware, a tra poco. Watching all those pretty girls, Venice. It gets really strange going through Venice. Different attitude. On a Venice summer evening, found me searching for the fire. The elusive seed of childhood became my one desire. There were places in the valley where they said that I could find it. There were rhythms in the distance in the ancient elder forest. Cable car to where your dreams go. There's a lot. lot of make-believe. San Diego, from LA, you'll find out where your dreams flow. From the hillside to the desert, following the map inside me, I can feel the road is leading to the treasure that will guide me. There were places in the valley where they said that I could find it. There were rhythms in the distance, in the ancient elder forest. Amo guidare, quindi è bellissima una gita in auto con la dovuta prudenza, no? Ammirare il paesaggio, è bellissimo il decollo, che emozione, il distacco, insomma, tutte le modalità di partenza. Beh, ce n'è una che non nascondo, delle volte mi sono accorto che i miei occhi erano lucidi, che è quello del salpare. Anche se non sono certo un marinaio, né per motivi tecnici né per motivi fisici, non so, non conosco le terminologie molto affascinanti, ma sono totalmente ignorante in materia. Ciò non toglie che ogni volta vedo questa enorme fune che si distacca dall'ormeggio e dalla bitta, per me è... Bah. Eh sì. Passione per la Grecia, per le isole del Dodecaneso, una grandissima passione, ci ho fatto diversi anni. Beh, un aeroporto che ha la linea con Bologna, o che aveva per meglio dire, era l'aeroporto, o è l'aeroporto, della splendida Kos. Dopodiché da lì, con il mezzo del traghetto, vi è la comunicazione con altre isole. Mia intenzione assolutamente era vedere l'isola di San Giovanni. Avevo avuto sentore con immagini, o vedendola a distanza, con questo castello dei Templari, la bellezza di un territorio, sì, tipicamente greco, ma anche con particolarità di oasi verdi e lussureggianti in queste cupole azzurre, le casette bianche, le spiagge, il mare Egeo, la cucina greca, la rezzina, l'uso. Quindi ci si ordinava da questo atterraggio a seconda di chi aveva scelto le isole per il soggiorno nel Dodecaneso. E io sono in fondo e capisco anche perché. È l'ultima in alto come isola in quelle disposte in fila per quanto riguarda questo fantastico arcipelago. Quindi si parte, scendono i primi che sono a Kalymnos, l'isola delle spugne. Dopodiché c'è l'Eros, poi c'è l'Ipsi e alla fine, poco prima, insomma, in questo scomparto resto solo io e resta un po' così la ragazza che dava indicazione. Mi si avvicina alla penultima isola perché vede che sono rimasto solo e dice: quindi tu Patmos? Dico: io sì, Patmos. Mi sorride semplicemente, mi dice: preparati. Ma come, c'è ancora un po' di navigazione? No, preparati esteticamente e spiritualmente. Perché? Ah, ho capito poi il perché. È tutti i tempi. Can you see it now, brothers? Can you see the new? Can you see it now, brothers? Can you see the new? See the new? Beh, già resto molto coinvolto appena arrivati, la bellezza certo, poi vi è, questo era il tramonto, fra l'altro potete immaginare, c'è questo cartello, i gatti sono un patrimonio dell'isola, chiunque faccia male a un animale, chiunque abbia motivo di disturbare, chiunque abbia maltrattamento su un gatto, sappiate che penalmente sarà immediatamente fermato, rimpatriato e punito, e già questo ho detto ok, qua già ci siamo. Famosi gatti greci che sono ovunque e sono quasi divinità. Oh, idea, I feel white fear, the stumbling blocks, you know, there's always keys to luck, still flux, fail to see a new way out, try tackling the problem, laterally, literally make... Isola d'Apocalisse, paura e salvezza, Patmos, nel mare dell'ispirazione, in questo piccolo lembo di terra greco, Giovanni, tra l'altro oggi è San Giovanni, auguri a tutti Giovanni, Vanni, Giovanna e via discorrendo, scrisse il libro più visionario del Nuovo Testamento, l'Apocalisse, forse perché nella solitudine, nello oscurità, la vista si fa più aguzza e l'udito più teso. Inizia così l'articolo di Giulio Busi, purtroppo non sono riuscito oggi, impegnatissimo in viaggio, lo saluto e lo ringrazio per tutti i motivi di approfondimento che ha dato nei magazine, nello stordimento digitale che ci circonda, l'insularità del libro è un messaggio che tocca in profondità. Sì, condivido questa visione, l'isola di Patmos in cui viene concepita l'Apocalisse è uno dei luoghi più misteriosi della tradizione occidentale. A me, Giovanni, accade di trovarmi a Patmos nel giorno del Signore. Mi accade di essere afferrato dallo Spirito. Sono le parole che danno l'avvio alla rivelazione. E perché ci chiediamo proprio quest'isola al largo dell'Asia Minore? Beh, secondo una tradizione, Giovanni fu esiliato qui e qui gli fu rivelata la rottura della storia, la conflagrazione dei mondi e lo ristabilimento del regno divino. Viene spontaneo pensare al profeta biblico Ezechiele che ebbe la propria visione del carro celeste durante l'esilio babilonese. La storia, il mito, la spiritualità si fondono in maniera totale e pensate che solo dal racconto e senza esserci mai andato, un grande poeta e scrittore allo stesso modo ha avuto motivo di approfondimento immaginario sull'isola di Patmos. L'avvio è memorabile, è vicino, è difficile da comprendere il Dio, ma dov'è il pericolo cresce, anche ciò che dà salvezza. In Hölderlin, e sto parlando di Hölderlin, lo spazio torna ai primordi dell'essere, prossimità, intimità, equilibrio di opposti, e così il segreto è vicinissimo. Difficile però è capirlo. L'isola è pericolo, giacché è minacciosa la sua solitudine, è rischioso ogni tentativo umano di sollevare il velo divino. Because you've come. Come Olderlin è andato a Patmos ed è ritornato senza muoversi dallo scrittoio e dalla contemplazione, così l'isola nostra interiore non ha bisogno di essere calpestata per mostrarsi. Basta sedersi, aprire il codice e scrivere con la mente. Can you see it, my brother? Can you see the new? Beh, il nostro personaggio misterioso, dovete sapere che pur di navigare, per cui l'attinenza c'è, mentre l'impero britannico raggiungeva il suo apice, questo personaggio misterioso, scrittore, sfruttò la sua esperienza dapprima nella marina francese e successivamente in quella britannica per scrivere romanzi, racconti che riflettono aspetti di un impero globale e allo stesso tempo esplorano gli abissi della mente umana. Ci stiamo avvicinando, eh? Patmos ha una struttura geografica molto particolare. Fate finta, sarò molto immediato. Presente la pasta, li chiamate molti, io li chiamo gli stricchetti, in realtà si chiamano farfalle, ecco, quindi ha un istmo in mezzo, uno stretto, e si allarga in due parti, non dico parallele, simili, ecco, simmetriche, parola giusta, però ha questi aspetti. Questo punto centrale, quello più sottile, quello che si alza di più, dove troviamo il castello di San Giovanni, il castello dei Templari, cavalieri di San Giovanni, no? A proposito dell'onomastico che ho ricordato in precedenza, vi sono due città principali, poi vi sono diversi villaggi, la città di Hora e la città di Scala, dove si appunto approda, e invece dove invece, iniziando questa piccola ma piacevolissima salita dove si ha una vista meravigliosa, si arriva alla grotta di San Giovanni. La grotta di San Giovanni è dove si dice abbia avuto la visione dei quattro cavalieri dell'Apocalisse. C'è un giaciglio di pietra, completamente di pietra, dove di fronte vi è, in una parete di roccia, queste quattro macchie che sembrano veramente quattro cavalieri a cavallo, e si dice che appunto la sua visione è restata talmente vivida e talmente di ispirazione forte, spaventosa, che questa visione abbia dato il via e sia rimasta fotografata su questa parete di roccia. In effetti li ho visti, non ho né il talento né la spiritualità, figuriamoci, però queste sagome vi sono all'interno della grotta di San Giovanni. This life strife must end, put the pen to the paper, the shaper. Things to come can be pleasant if only me and you break free, break through, see the new, see the new. Sì, Sergio, vedo che anche tu li chiami gli stricchetti, però il nome che più troviamo nelle modalità e nelle confezioni di pasta è le farfalle. E noi un po' di musica, abbiamo ascoltato gli Style Council con Paris Match, magari diamo anche qualche altro indizio per quanto riguarda questo scrittore. Beh, lui è stato molto molto importante per altri autori, ad esempio Jack London, Ernest Hemingway, il mio amato Graham Greene, e chi possiamo aggiungere anche? Oh beh, William Burroughs. Molte delle sue opere, sebbene molte delle sue opere siano pervase di non pochi elementi di ispirazione romantica, è considerato soprattutto un importante precursore della letteratura modernista. naturalizzato inglese, seconda metà dell'Ottocento, poco dopo la seconda metà dell'Ottocento, autore che ha la capacità poliglotta nello scrivere e nel parlare, però scrive in lingua inglese, autore che ci porta in mondi concreti, ma nello stesso tempo che sa descrivere in maniera assolutamente intensa. È stato definito uno dei precursori del modernismo in letteratura. Insomma, questi direi che sono già degli indizi abbastanza. Si fa ruolare, addirittura viaggia assieme alla marina sia francese che dell'impero britannico per riuscire ad avere ancora più attenzione per quanto riguarda poi le narrazioni da lui riportate. Arriva qualche messaggio, vediamo, Grande Alessandra, sì, è Joseph Conrad. Ti farò trovare da Ubik, se riesco, il suo primo lavoro, che è meraviglioso per me, ok, ne conosciamo diversi, non so, hai letto Lord Jim, il suo primo lavoro? Conosciamo tanti altri lavori, ma per me sarà perché il primo amore, anche per uno scrittore, non si scorda tanto facilmente, e sarà il libro appunto che vedo, se no avremo un altro classicone di Conrad. Beh, se non hai letto Lord Jim, Alessandra, lo troverai da Ubik nei giorni prossimi, il tempo di arrivare in libreria, in Via Nerio 27, in collaborazione con il Breakfast Club. Complimenti Alessandra, grazie. A tra poco con il Breakfast Club abbiamo parlato dei Templari. Allora parleremo del Baffometto. Chi conosce il Baffometto? Beh, lo conosceremo tra poco dalla lettura del Corriere della Sera. Let me down. I know you'll never let me down. Oh, oh, oh. You'll never say, baby. No, no, non è un consiglio, Alessandra, è il tuo premio. Baby, baby. I'll see you another day, hey, baby. Baby. I'm so. Thankful for my love, yeah. So thankful for my love. Become a bad piano playing man. che parlare del Dodecaneso è impossibile non citare i Cavalieri Templari. In ogni isola vi è un castello templare, quello di Patmos poi è particolarmente suggestivo, come quello di Rodi è particolarmente intenso per quanto riguarda la struttura e come è stato ben conservato. Quello di Patmos ha delle particolarità architettoniche che sono molto armoniche con la struttura geografica, con la morfologia dell'isola di Patmos. Mistero templare, il mistero templare, alcuni appassionati lo sapranno, ma beh, citiamo una data, 13 ottobre 1307. Da lì in avanti il numero 13 avrà motivo di sventura. Che successe il 13 ottobre del 1307? I soldati di Filippo il Bello arrestarono improvvisamente e contro la volontà del Papa tutti i templari di Francia. Fu l'inizio di un lungo processo che portò allo scioglimento dell'ordine. I templari dovevano proteggere unicamente i pellegrini in Terra Santa, particolarità, all'inizio erano in 9, quindi mi sembra un esercito un po' ridotto, ma questi templari hanno avuto la bella idea anche di portare ai pellegrini in Terra Santa l'invenzione del vaglia postale, cioè chi portava un documento, chiaramente per l'epoca, aveva la possibilità di prelevare una somma per la vita al di fuori delle proprie proprietà, dei propri territori, insomma. Quindi l'invenzione dell'assegno, del vaglia, pensate, chiaramente questo ha una commissione, va da sé, e accumulano una quantità di ricchezza spropositata, il famoso tesoro dei templari. Questo spaventò molto anche il fatto che loro, grandi intellettuali, avevano motivo di dialogo e intersezione culturale con l'Oriente. Questo non piaceva molto, Dopo tanti motivi di conoscenza, arrivarono a mettere in dubbio la crocefissione per come ce l'hanno raccontata. Si diceva che erano omosessuali, pur di gettare, per così dire, del falso su di loro. Perché? Perché in due andavano a cavallo, ma lo facevano perché avevano una vita morigerata. Si diceva che erano blasfemi, che non credevano nella crocefissione, dei pervertiti. Beh, probabilmente perché non andava tanto a genio che loro avessero una cultura così alternativa, unita a una ricchezza spropositata, come vi ho detto in precedenza, no? Unita a una ricchezza veramente enorme. Beh, questo purtroppo ha portato a questa strage che ebbe il via il 13 ottobre del 1307 e per mano di Filippo il Bello. E pensate che l'ultimo, chiamiamolo così, figura carismatica dei Templari, Jacques de Molay, disse a Filippo il Bello: guarda che tu adesso ci stai uccidendo tutti, ma tra qualche secolo io ho avuto una visione molto chiara, stai molto attento a quello che fai, perché io ho visto tutti i tuoi figli con la testa staccata dal corpo in un bagno di sangue. E che successe qualche secolo dopo? La rivoluzione francese. Poi c'è una figura particolare, un idolo, un motivo così particolare, il Baffometto. Beh, il Baffometto cos'è? Un caprone. Oddio, un caprone, allora è il diavolo. Dopo prenderà quell'immagine, ma il Baffometto era un dio assiro-babilonese che rappresentava invece un aspetto di protezione, di cura, di attenzione per il genere umano. Così lo rappresentavano gli assiri babilonesi e poi furono messi subito a tacere, immediatamente. E chiaramente come si fa per mettere a tacere ulteriormente qualcosa di importante? Beh, si identifica con il maligno. Da lì in avanti il caprone ebbe, come ben sapete, l'iconografia demoniaca, no? Ma ai tempi delle divinità assiro-babilonesi, il caprone era identificato come un'entità benevola, di protezione, e il Baffometto è in un articolo a pagina 26 della lettura del Corriere della Sera, l'enigma del cabalista, un'indagine del Templare. L'autore è Marcello Simoni, è un libro che non contiene solamente questa immagine iconografica del Bafometto, ma per le appassionate e gli appassionati, io ho avuto il periodo chiaramente in cui mi sono molto addentrato in questa letteratura particolare, meglio sempre in ambito di saggistica, perché sapete come il romanzato poi possa prendere piede, certo può essere più coinvolto, ma ne consiglio, magari do qualche consiglio di scrittura a proposito dei Templari, del Baffometto e di questi cavalieri ospitalieri o cavalieri di San Giovanni. Fai parte di quella setta? Bellissima la storia antica, la spieghi molto bene. Buona giornata da Abshish. Non è che sei della setta degli assassini, chiamati così non in quanto assassini, ma perché consumavano hashish e appunto adoravano il Baffometto. Grazie, grazie per il messaggio che è arrivato al 333-180-9494 da Abshish. Appassionato di pallacanestro, non avevo mica letto. Ok William, bellissime parole, ma Stephen Curry ha fatto 105 su 105 al tiro da 3. Beh, si è allenato molto bene, è molto preciso, un tiratore incredibile. Forse è un dio o un filosofo, ma ho entrambe le cose. Sicuramente ha una gran mano, ma sai cos'ha Stephen Curry? Poi magari il Mood Group, però se mi invitate a parlare di basket è come invitare un Oca Bear. Stephen Curry a quella precisione, sai cosa unisce? Una velocità di esecuzione singolare. Ti spiego dov'è la singolarità. Da quando lui raccoglie la palla dall'ultimo palleggio a quando la palla esce dalla sua mano, è battito d'ala di un colibrì, ma molto più veloce. Secondo me è quella la chiave. Perché se ci fai caso, lui non tira né con una particolare sospensione né con una particolare, insomma, lui ha questa caratteristica che ti prende il tempo. Ecco, per dirla in sintesi, la sintesi non è il mio dono, però in questo caso ne ho avuto l'illuminazione. Lui ti prende il tempo. Cara, carica di gambe perché è basso, sì, confermo, ma per me, ripeto, io non ho mai visto una velocità di esecuzione da quando raccoglie a quando la palla esce, cioè è incredibile. La prima pagina, anzi per meglio dire il primo articolo, che di solito è un long per la lettura, anche questo mi ha dato molto motivo di riflessione a proposito di notizie che arrivano in maniera un po' criticabile. Comunque, a 110 anni dagli eventi che condussero alla grande guerra, la prima guerra mondiale, di fronte alle tragedie dell'Ucraina e di Gaza, ci siamo chiesti se gli attuali governanti non stiano percorrendo inconsciamente la via che porta a un conflitto generalizzato. Secondo lo storico militare francese Odile Rousseau, ci siamo illusi che l'ipotesi di uno scontro armato tra stati del nostro continente fosse scomparsa per sempre. Ma non è così, e ora bisogna risvegliarsi. È un articolo che invita un po' a questa brutta cosa, e insomma mi rendo conto di prendere la consapevolezza. Ma qui è come viene raccontata, che è in maniera criticabile e soprattutto molto discutibile, perché costruiamo e non con la guerra quella che appunto deve essere una pace. Se vuoi la pace, prepara la guerra. No, no, pensiamo a costruire la pace. E in effetti, seppur, come ho detto, discutibile questo long format, io preferirei portarlo con questi contenuti. Poi ci sono tanti altri motivi come questo, no? Nel dibattito delle idee. Crollata l'URSS, abbiamo pensato a goderci i dividendi della pace. Cosa stai dicendo? Guarda che, volente o nolente, l'URSS, l'Unione delle Repubbliche Socialiste Sovietiche, era il principale custode della pace. Il risultato è che abbiamo eserciti professionali ben addestrati, ma inadatti a guerre ad alta intensità. Insomma, questi sono i contenuti bellicisti, mi viene da dire, dove viene messa un po' da parte invece l'aspetto culturale e di lucida analisi. Sia l'impero zarista, in seguito all'Unione Sovietica, ora la Russia, l'Occidente non ha mai perdonato una cosa, non gli ha mai perdonato d'averle suonate e forte, ma forte, ai nazisti, è quello. Come sono i cani da guardia del liberismo? Ma com'è possibile? Capisco tutto, ma persino all'allargamento di Hitler, quando già l'Unione Sovietica diceva guardate che questo, no, per carità, no, lasciamo, concediamo anche questo territorio, ma no, concediamo anche parte della Cecoslovacchia, ma no, concediamo, ma tanto poi si ferma, no. E l'Unione Sovietica continuava a dire fate attenzione che Baffino è matto e violento, fate attenzione. E alcuni diplomatici occidentali in risposta tra di loro dissero ascolta, meglio concedere un po' di più a Hitler, ma teniamo fuori assolutamente, ma per l'amor di Dio, meglio tenere fuori l'Unione Sovietica e concedere un po' di più a Hitler. È per quello che poi è nato il famoso patto di non belligeranza, E poi in seguito, la storia non sta certo a portarla come si è compiuta. Dovremmo imparare da questo, ma non sembra. Abbiamo un po' le orecchie da mercante. Vabbè, ok. La rassegna stampa comunque sarà dalle 9.30 alle 10.30. Curata e condotta da Alfredo Pasquali. Io vi ringrazio per l'attenzione, per aver giocato e collaborato in co-conduzione con i magazine del Breakfast Club. Vi do appuntamento a domani con il Move to Groove del martedì, e con un caloroso abbraccio mi concedo a voi una buona giornata, un buon lunedì e una buona settimana dal vostro William Piana. Ciao a tutte, ciao a tutti, a domani, ore 7, colazione assieme.